Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Salva Danaio. Ripartiamo nella nostra settimana dedicata ai temi del fisco in questo caso, ma come sapete in genere tocchiamo un po' tutte le tematiche che attengono alla gestione migliore, si spera, del vostro budget familiare. E allora, perché oggi parliamo di fisco? Perché alla fine del mese molti contribuenti riceveranno un anticipo di regalo di Natale, definiamolo pure così quest'anno. Quest'anno l'acconto IRPEF 2009 che va versato entro lunedì 30 novembre, quindi entro lunedì della prossima settimana, sarà più leggero. Perché? Perché il decreto legge approvato dal governo 10 giorni fa su disposizioni urgenti in tema di versamento degli acconti d'imposta ha disposto che questo versamento, che di solito si paga nella misura del 99%, ammonterà al 79%. La differenza sarà versata a giugno del prossimo anno, quindi non è esattamente un regalo ma è un differimento, come si dice nel gergo fiscale. Oggi cercheremo di spiegarvi qual è la platea dei beneficiari di questo provvedimento e come dobbiamo comportarci a novembre per poterne beneficiare, appunto, ed usufruire. I nostri interlocutori conosciamo molto bene, sono tra i massimi esperti fiscali del Sole 24 Ore, Luciano De Vico e Tonino Morina, li saluteremo tra qualche istante. Prima di tutto però andiamo a vedere come si comporta la borsa in questo avvio di settimana. Il quadro è piuttosto positivo, Parigi e Francoforte stanno salendo dell'1,6% in media, meglio va Londra adesso per la verità. È da tutta la mattinata che le borse si stanno passando il testimone e quindi a fasi alterne i listini europei appunto risultano chi prima uno, poi l'altro, insomma migliori d'Europa. Adesso è Londra che guida i rialzi del vecchio continente, più 1,7%. Milano invece è da questa mattina la piazza più prudente, ma comunque porta a casa in questo momento un progresso di 1 punto percentuale. Diciamo che la borsa europea tenta di reagire a quella che invece settimana scorsa è stata una settimana piuttosto altalenante. Si è chiusa male venerdì per Wall Street perché ci sono ancora dei timori molto forti legati all'andamento e alla ripresa del comparto immobiliare, a cui naturalmente sono legati i mutui, per cui la tenuta della ripresa ancora lascia qualche dubbio nelle interpretazioni degli economisti e degli operatori degli investimenti, e su questo evidentemente poi anche gli investitori in termini generali si muovono. Oggi sembra partire un po' meglio la situazione e a Piazza Affari i titoli che stanno beneficiando di questa tendenza positiva stamattina sono Buzzi Unicem, più 3 punti, Luxottica più 2,78, Tenaris che stacca la cedola ma guadagna il 2,72%, c'è anche un altro gruppo che stacca il dividendo, Eterna, ed è il peggiore però adesso, meno 0,36%. Segnaliamo fra gli altri rialzi quello di Fiat, più 2,40%. Quello di Mediaset più 1,92, Exor più 1,91, Unicredit più 1,91%, Bulgari più 1,80 e poi con un rialzo molto vicino al punto e mezzo, anzi abbondantemente al di sopra del punto e mezzo, troviamo il Banco Popolare, Mondadori, Autogrill, Monte dei Paschi, Italcementi, Campari, Geox e Mediolanum. Euro su dollaro stamattina 1,4974, l'oro ha aggiornato un nuovo record assoluto spostandolo dopo i diversi toccati settimana scorsa a $1,164 l'oncia sull'onda dei soliti fattori, paura per la debolezza del dollaro, di un'esplosione dell'inflazione, di una ripresa economica molto più a rallentatore di quanto fino ad ora non sia stato previsto. Il petrolio è sopra i $78 al barile. Lasciamo la borsa, parliamo di fisco oggi perché arriva un piccolo anticipo di regalo di Natale a fine mese, non riguarda tutti i contribuenti, ma sentiamo di che cosa si tratta. A fine mese il fisco batte cassa con l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al 2009, ma questa volta facendo un piccolo regalo ai contribuenti, riducendo cioè di 20 punti la misura dell'acconto che passa in questo modo dal 99 al 79%. Il beneficio varato a sorpresa dal governo riguarda soltanto le persone fisiche, come ad esempio i lavoratori dipendenti con altri redditi, i liberi professionisti e commercianti, ma anche gli artigiani e i soci delle società di persone che hanno presentato la denuncia dei redditi 730 o modello unico 2009 e che entro fine novembre devono pagare la seconda rata dell'acconto IRPEF. Boccata di ossigeno, sì, ma temporanea. L'obiettivo del provvedimento è di fatto quello di lasciare più soldi in tasca ai cittadini nell'immediato, considerati i tempi di crisi. Quello che non si paga ora come acconto IRPEF sarà dunque dovuto a giugno 2010, in occasione appunto del saldo 2009. E allora l'ABC di questa riduzione di acconto questa mattina ve la spieghiamo, naturalmente prendendo a spunto anche i vostri casi concreti che potrete raccontarci all'800240024, naturalmente che abbiamo chiamato a darmi un aiuto perché ovviamente è materia nella quale io mi oriento ben poco, e poi quando siamo in sede di dichiarazione dei redditi Luciano De Vico lo sa che in genere mi aiuta, sa bene quanto brancolo nel buio nonostante predichi moltissimo da questi microfoni. De Vico, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie anche a Tonino Morina, ben ritrovato a Salva Danaio. Morina, buongiorno. A lei Deborah, ciao Luciano, buongiorno a tutti. E insomma abbiamo i massimi esperti fiscali del Sole 24 Ore che in questi giorni hanno davvero versato fiumi d'inchiostro su questo argomento, perché insomma questa notizia non è di poco conto, riguarda una bella platea di contribuenti. Va però specificato subito che questa possibilità di usufruire di questo sconto del 20% è una facoltà, non è un obbligo per nessuno, è assolutamente una cosa che si può decidere liberamente con il proprio sostituto d'imposta, con il proprio commercialista. Volevo cominciare con Luciano De Vico, anche se vedo già qualche ascoltatore che bussa alla nostra porta, con la questione appunto in termini generali. Peraltro Luciano è stato l'autore nei giorni scorsi di un articolo sul Sole 24 Ore nel quale ricostruisce un po' la storia dell'acconto fiscale, che ha addirittura ben 30 anni, Luciano De Vico. L'istituzione dell'acconto risale a più di 30 anni fa, quando fu approvata una legge, la 97 del 77, in cui i contribuenti per la prima volta furono obbligati a versare annualmente un acconto. Ovviamente lo scopo della norma era quello di avvicinare quanto più possibile il momento della percezione del reddito, e cioè il principio di cassa, quando viene percepito il reddito, a quello del prelievo del tributo. In questa maniera si attenuava anche quella differenza, quella sperequazione, per così dire, di trattamento esistente tra i contribuenti come i lavoratori dipendenti, che sono assoggettati a tassazione mediante una ritenuta alla fonte, quindi subito appena percepiscono il reddito, e quelli invece che versano le imposte 6 mesi dopo la chiusura del periodo d'imposta. Con l'acconto invece, già nell'anno in cui viene prodotto il reddito, si è tenuti a versare al fisco un anticipo che poi sarà oggetto di conguaglio al momento del versamento del saldo. Quindi mediamente in giugno. Tra l'altro questo acconto era inizialmente nella misura del 75% dell'imposta relativa al periodo precedente, siamo arrivati poi progressivamente a versarlo praticamente quasi tutto. Solo le persone fisiche sono tenute a calcolarlo nella misura del 99%, IRPEF e IRAP, persone fisiche soggette all'IRPEF per l'IRPEF e il 99% per l'IRAP, invece le società dei capitali nella misura del 100%, e quindi sulla base dell'imposta dell'anno precedente. Però va detto anche che c'è un ulteriore metodo cosiddetto previsionale, vale a dire verso l'acconto sulla base di quello che prevedo saranno le mie imposte l'anno successivo. Attenzione ai rischi però nell'adottare questo metodo: se poi a consuntivo i conti non tornano, ovviamente si rischiano anche delle sanzioni. Infatti, tra l'altro, proprio di questo stavamo parlando a microfoni spenti con un mio collega che mi stava chiedendo appunto qualche suggerimento sulla dichiarazione dei redditi della moglie, e quindi spero magari a Carmelo di aver dato anche una minima indicazione con questa risposta di Luciano De Vico. Allora, Tonino Morina, rieccoci a noi. Quali sono dunque le novità che sono state apportate? Ne abbiamo parlato un po' nella nostra scheda, ma chiaramente la parola di un esperto ci conforta un po' di più. Le novità del decreto legge approvato a metà novembre, e quindi in sostanza, proprio per, come dire, spiegarla in maniera concreta in soldoni ai nostri ascoltatori, questo differimento, non riduzione, non regalo, perché nessuno ci fa alcuno sconto, appunto questo differimento del versamento del 20% dell'acconto 2009 da questo novembre a giugno prossimo. Insomma, come è maturata questa decisione? Ha a che fare anche, come dire, con il frangente economico abbastanza delicato? Era una questione alla quale l'amministrazione fiscale del nostro paese stava pensando da qualche tempo? Qual è la sua origine? Ma in effetti si vuole dare un po' di soldi alle persone fisiche, perché il governo intende mitigare la crisi che c'è dando un 20% in meno, cioè restituendo qualcosa in tasca, solo che, come avete detto nella scheda e come dobbiamo ripetere, non è un regalo, perché si dovrà restituire e fare il conguaglio poi a giugno in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. La platea è molto vasta, e quindi questo sconto del 20% attuale da restituire poi a giugno in sede di conguaglio riguarda tutte le persone fisiche, sono circa 25 milioni di contribuenti, naturalmente se obbligati a versare l'acconto IRPEF, e dobbiamo aggiungere a questa platea anche i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, persone fisiche che applicano il regime dei minimi. Una cosa che probabilmente sarà segnalata nei prossimi giorni sul Sole 24 Ore, perché queste persone fisiche che hanno un regime particolare devono applicare per versare l'imposta sostitutiva le regole proprie dell'IRPEF, e quindi se è vero come è vero che devono applicare le regole dell'IRPEF, naturalmente in sede di acconto loro hanno versato il 40% del vecchio 99% a giugno, per dire. Ora però con la nuova misura devono rifare i calcoli, ma così come loro, tutte le persone fisiche che versano l'acconto avranno questo beneficio. Giusto per fare un esempio matematico, se globalmente dovevano versare 10.000 euro, col 99% avrebbero versato 9.900 euro tra giugno e novembre. In effetti, col 79% globalmente devono versare 7.900 euro. In sede di conguaglio, poi, l'anno prossimo, naturalmente, si farà il tutto. Se, per assurdo, come ha detto già Luciano De Vico, il contribuente ritiene quest'anno di avere un reddito più basso dello scorso anno, nulla vieta che addirittura si possa versare meno del 79%. Esempio, se io quest'anno non ho redditi, mentre l'anno scorso ho pagato 10.000 euro, non sono obbligato nemmeno all'acconto. Chiarissimo. Allora, peraltro ci sono già degli ascoltatori, io magari farei già fare delle domande, poi andremo anche alle altre, nel resto della trasmissione vorremmo affrontare anche un minimo di vademecum su come comportarsi dunque con questa scadenza a novembre, perché dipende anche dalle modalità di denuncia dei redditi che si è autorizzata quest'anno. Ci sono i contribuenti che usano il modello unico o il mini unico, oppure chi usa il 730 e quindi chi si interfaccia con un sostituto d'imposta piuttosto che no, e però c'è già chi questo acconto lo ha già versato e quindi non si trova più nelle condizioni di poterlo naturalmente chiedere lo sconto del 20%. Allora vorrei sentire subito Sandra da Biella, le faccio fare la domanda e poi Sandra le rispondiamo nella seconda parte di Salva Danaio, quindi lascio anche poi i nostri ospiti riflettere sulla indicazione più corretta da darle. Sandra, buongiorno. Buongiorno, intanto la ringrazio. Grazie a lei. Senta, appunto, come lei stava dicendo, noi facendo il 730 cosa, già quando si fa il 730 si sa cosa si deve pagare, cosa si lascia giù, cioè sulla pensione, perché automaticamente te lo trattengano già. Noi abbiamo fatto i 3 mesi perché abbiamo scaglionato la cifra, e il 4° mese ci è venuto trattenuto già l'acconto per il 730 poi del 2010, già all'inizio novembre, in modo che sono 4 mesi che abbiamo la pensione decurtata, pazienza. Però 3 mesi erano della vecchia, diciamo, del vecchio 730 di conguaglio, adesso c'è già stato l'acconto sulla pensione, quindi anche se lei avesse voluto, ammettendo che avesse tutti quanti i requisiti per poterlo chiedere, lo sconto del 20%, ribadiamolo, peraltro non è uno sconto ma un differimento a giugno, non ha avuto appunto l'opportunità di farlo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, e allora oggi stiamo parlando dell'acconto IRPEF 2009 che va versato entro lunedì 30 novembre, ma alcuni contribuenti che rispondono a determinati requisiti fiscali e reddituali, fiscali soprattutto, potranno avvalersi di questa opportunità che il governo offre attraverso un decreto che è stato emanato a metà mese, e cioè hanno l'opportunità di fare in modo che il versamento dell'acconto non corrisponda alla somma integrale che mediamente va versata, e cioè si può ottenere quest'anno uno sconto del 20%. Non è uno sconto, è solamente un differimento di pagamento, e poi la posizione va regolarizzata a giugno 2010 del prossimo anno. E allora ci sono alcuni ascoltatori che stanno sollevando alcune perplessità, come per esempio questa è assolutamente legittima. Gerardo ci scrive al 349-238-6666, dice: ma siamo sicuri che non ci chiederanno gli interessi su questo cosiddetto sconto, che si chiama nel gergo fiscale, lo ribadisco ancora, differimento? Luciano De Vico, mi vuole rispondere lei? Dunque, diciamo che l'Agenzia delle Entrate deve chiarire ancora molti aspetti, e chissà che non risponda anche su questo magari. Allora, l'unico documento che noi abbiamo oggi è il decreto legge, che peraltro non mi risulta essere stato ancora neanche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In ogni caso il quesito dell'ascoltatore e dell'ascoltatore di prima, e cioè quella che la contribuente che ha presentato il modello 730, trova risposta già nel decreto. Visto che il sostituto di imposta ha già prelevato un importo pari al 60% del 99% dell'imposta dovuta lo scorso anno, con la retribuzione di dicembre riceverà la differenza. Questo 20% sarà restituito da parte di tutti i sostituti di imposta che non hanno operato la riduzione dell'accordo. Ecco, ma nel caso di Sandra De Vico verrà fatta in automatico questa restituzione. Sandra riceverà, dovrebbe ricevere, attenzione, a dicembre la differenza di quanto tra quanto è stato prelevato e quanto doveva essere prelevato, quindi il 20% in buona sostanza. Invece, per quanto riguarda gli interessi, direi proprio di no, questo non è scritto. Trattandosi di un differimento, mi meraviglierei francamente se l'Agenzia delle Entrate disponesse anche l'applicazione di un tasso di interesse. Peraltro una precisazione mi sembra doverosa, e cioè è vero che si tratta di un differimento, però anche qui la norma è chiara, attendiamo ovviamente istruzioni ufficiali sul punto. La norma dice che il differimento l'acconto è differito, ma sempre nei limiti di quanto dovuto a saldo. E quindi facciamo un'ipotesi: se io oggi verso un minor secondo acconto e poi il prossimo anno a giugno comunque per aver guadagnato meno o per avere degli oneri deducibili in più non sono tenuto a versare il saldo, non dovrò restituire il secondo acconto, sempre nei limiti di quanto dovuto a saldo. Qualche problema potrebbe sorgere per le modalità di questo versamento, ma questo è un problema che si affronterà a giugno. A giugno. No, io volevo, non per insistere ovviamente, ma solamente per dare un'ulteriore precisazione a Sandra da Biella, sempre per la questione del già avvenuto versamento dell'acconto IRPEF. Se l'acconto, ci diceva Luciano De Vico, è già stato prelevato, la differenza deve essere restituita a dicembre, ma mi chiedo che modalità deve applicare Sandra per poterla ottenere, appunto, questa percentuale. Deve comunque comunicare al suo sostituto imposta che vuole avvalersi di questa opportunità. No, questa è una modalità che non è prevista. Con il modello 730 è scritto nella legge: perfetto, i sostituti d'imposta sono tenuti a ricalcolare l'acconto, vale a dire il sostituto d'imposta che ha ricevuto da un CAF il cosiddetto prospetto di liquidazione o modello 730/4 deve rifare il conto. Benissimo. Cioè deve ricalcolare il secondo acconto e trattenerlo nella misura inferiore stabilita dal decreto legge. Ho voluto puntualizzare questo aspetto proprio per ribadire la differenza fra chi fa la dichiarazione dei redditi con 730 e chi la fa invece con unico. Chi invece la fa con unico deve fare i conti, ovviamente. Esattamente, quindi deve fare da solo. Allora, Tonino Morina, adesso ritorno naturalmente da lei con il caso di Lorenzo dalla provincia di Vicenza. Lorenzo, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Mi sente? Sì, la sentiamo benissimo, Lorenzo. Va bene. Il mio quesito era questo, al quale hanno già in parte risposto. Dunque io avrò una riduzione del reddito dei fabbricati e contemporaneamente un aumento degli oneri detraibili per una ristrutturazione su questi fabbricati. Perfetto. Allora io so già adesso. Quindi praticamente ha mandato via il suo inquilino Lorenzo, poi si è ristrutturato tutta la casa. Sì. Non proprio così, ma quasi. Sì, va bene, ho analizzato. Se io verserò anche il secondo acconto IRPEF di novembre, sono certo che avrò un credito d'imposta non interamente compensabili con l'IRPEF. Volevo sapere se posso compensarlo eventualmente con l'ICI. Allora, che bel intreccio che ha fatto Lorenzo, però credo che non sia proprio un caso del tutto, come dire, incomprensibile per i nostri amici esperti di ambiti fiscali. Tonino Morina. Certamente, diciamo, tutto ciò che rimane a credito ed è nella disponibilità del contribuente può essere compensato con i versamenti di altri tributi. Naturalmente il nostro ascoltatore, se già sa i calcoli, può versare nell'ambito del previsionale di quest'anno, per cui potrebbe anche fare i calcoli naturalmente, come ha detto giustamente Luciano, stare attenti a non fare calcoli sbagliati, perché poi c'è il rischio di pagare la sanzione del 3% sul minore acconto. Quindi la risposta per il nostro ascoltatore è positiva, nel senso che qualora restasse in sede di conguaglio qualcosa a suo credito, il credito lo può usare per pagare l'ICI con il modello F24. Un'ultima osservazione c'è da dire per chi ha già versato l'acconto nella misura del 99%, non mi riferisco alla signora che fa il 730, ma mi riferisco a tutti i contribuenti che fanno l'unico, se hanno già pagato l'acconto possono usare la differenza del 20% in compensazione. Cosa vuol dire questo? Che nei prossimi giorni l'Agenzia delle Entrate istituirà, come già fatto lo scorso anno quando ci fu la riduzione degli acconti IRES per le società di capitale, un codice tributo per il quale naturalmente, se uno ha versato, esempio, 2.000 euro in più, potrò usare quel credito in compensazione con altre versioni. Se vuole, rimane fermo, e questo già l'abbiamo detto nella scheda introduttiva, che chi paga di più non si deve preoccupare di nulla, perché in sede di conguaglio farà i calcoli. Se andrà a credito, come il nostro ascoltatore ha detto, potrà usare quel credito in compensazione o con gli acconti IRPEF del 2010 o con l'ICI o con altri tributi. Allora, tra l'altro stavo anche rileggendo i messaggi degli ascoltatori e non mi ricordo se questo aspetto lo abbiamo definito e precisato nella prima parte di Salvadanaio. Continuo con lei, Morina, perché mi sembra che proprio lei avesse sollevato la questione dei contribuenti minimi dello scorso anno. La detrazione IRPEF riguarda anche questi? La detrazione, l'abbattimento, la riduzione dal 99 al 79% riguarda anche i contribuenti minimi, che sono gli esercenti imprese, arte e professione con entrate annue di norma non superiore a 30.000 euro, perché quest'anno con una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è stato espressamente previsto che per questi contribuenti si applicano le stesse regole previste per l'IRPEF. Quindi se si applicano le stesse regole previste per l'IRPEF, così come sono stati obbligati a versare il primo acconto con le regole dell'IRPEF, sono obbligati, tra virgolette in questo caso, beneficiari dello sconto che è previsto per l'IRPEF anche per il versamento dell'imposta sostitutiva in acconto che devono questi contribuenti minimi. Perfetto. 800 24 00 24, potete continuare a prenotare i vostri interventi, così come ha fatto Silvia da Verona, che saluto. Silvia, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Io ho due quesiti. Sì. Io ho già l'F24 stampato dall'Agenzia delle Entrate, che mi ha fatto il calcolo del versamento che devo fare al 30 novembre. Sì. Se io devo versare un importo diverso, dove devo andare a farmi ricompilare questo modulo o a ricalcolare l'importo? Allora Silvia, aspetti lì e andiamo da Luciano De Vico. Ma innanzitutto, se è stata chiesta assistenza fiscale all'Agenzia delle Entrate, immagino si possa tornare all'Agenzia delle Entrate a chiedere di ricalcolare l'acconto. Il calcolo non è difficile, nel senso che se si ha a disposizione il modello unico che è stato presentato, si prende nel quadro RN il rigo differenza, si calcola anziché il 99, si calcola il 79% di quel rigo, dell'importo inserito in quel rigo, e si ottiene l'intero acconto 2009. Da questo basta detrarre il primo acconto, quello di giugno, che è stato versato in forma intera o a rate, e si ottiene quindi il nuovo importo da indicare nel modello F24 col codice tributo previsto appunto per il secondo acconto. Quindi diciamo, questo ovviamente, io adesso non so se le agenzie delle entrate sono già attrezzati per ricalcolare gli acconti. Il codice tributo è il 4034. Esatto, infatti ce l'avevo sotto gli occhi, lo stavo proprio indicando anche l'ascoltatrice. Magari sentiamo Torino Marina se è d'accordo sulla strada da perseguire, senza naturalmente voler sconfessare l'indicazione che ci ha dato Luciano De Vico. Morina, secondo lei per Silvia è il caso di ritornare a valutare l'Agenzia delle Entrate appunto per ricalcolare il versamento che deve fare? Sì, sì, ha ragione perfettamente Luciano, già l'Agenzia delle Entrate è molto attiva su questo fronte, per cui in qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate in Italia fanno i calcoli con massima gentilezza e rispetto del contribuente. Per fortuna c'è un rapporto molto tranquillo e molto collaborativo tra Agenzia delle Entrate e contribuenti, e quindi ha perfettamente illustrato la vicenda Luciano. Benissimo, allora 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, oppure avete l'opportunità di scriverci al 349 238 6666. Peraltro vedo anche questa è veramente una bella stravaganza, non irrilevante, c'è una mail di un'ascoltatrice che ci scrive: lo studio dei commercialisti che compila i nostri moduli per dichiarazione dei redditi dice che, non essendo ancora stata pubblicata in Gazzetta la norma, c'è il decreto solamente, lo diceva anche prima Luciano De Vico, non è possibile applicare questa norma. Grazie Claudia, e adesso sentiamo un po' anche i nostri interlocutori cosa dicono a questo proposito. Addirittura insomma c'è qualcuno che contesta come dire la validità della norma solo perché ancora non è in Gazzetta. Allora, eccoci di nuovo in diretta con Salva Danaio. Tonino Maria mi aiuta sulla questione che ci ha posto Claudia con una mail che dice che addirittura insomma il commercialista al quale si rivolge e a cui ha evidentemente chiesto di applicare questa norma di spostamento, differimento del versamento dell'acconto IRPEF nella sua totalità, e lui dice insomma che i commercialisti non vogliono farlo perché la norma non è ancora pubblicata in Gazzetta, lo ricordava prima anche Luciano De Vico. Fanno bene, un eccesso di zelo secondo lei? Ma ormai diciamo da molti anni, almeno da 20 anni a questa parte, si va avanti con i comunicati legge. Una volta così venne coniato sul Sole 24 Ore dal grande maestro Silvio Moroni, che è stato il cronista tributario per eccellenza per 60 anni del Sole 24 Ore, e quindi un comunicato legge o l'anticipazione fatta nei giorni scorsi dal governo, si può stare tranquillissimi che ormai da 20 anni valgono più le anticipazioni fatte che il provvedimento finale. Per carità, è un paradosso, ma certamente c'è molta serietà da parte dell'Agenzia delle Entrate, da parte di tutti i governi che si sono succeduti negli anni, quando hanno già anticipato un decreto legge. Il fatto che si ritardi la pubblicazione di 1, 2, 3 giorni non succede nulla, quindi possiamo stare tranquilli, la riduzione dell'acconto ci sarà nelle misure che abbiamo detto, dal 99 al 79% riguarda i contribuenti IRPEF, quindi il commercialista ha dato un'indicazione molto diciamo così restrittiva, aspettiamo il provvedimento, ma naturalmente è il fastidio magari che possano avere diversi commercialisti, tra i quali anch'io, per dire, per rifare i calcoli, perché stiamo parlando di rifare i calcoli a 7 giorni dalla scadenza. Ma naturalmente quando viene uno e vuole pagare 50 euro in meno come acconto, o 1000 euro in meno come acconto, o 10.000, quello che sia, per ha tutto il diritto diciamo di essere, dobbiamo rifare i calcoli, perché c'è un vecchio detto: per pagare, per morire c'è sempre tempo. C'è sempre tempo, giustamente. Allora c'è un altro ascoltatore che ci scrive chiedendoci: sono un dipendente, ho già versato l'acconto IRPEF sullo stipendio di ottobre, il rimborso sul prossimo stipendio sarà automatico. Dobbiamo ritornare, Luciano De Vico, a ribadire le modalità con cui, per chi ha già versato l'acconto, otterrà questa restituzione. Magari specifichiamo anche, come ha già fatto con estrema chiarezza il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, chi sono praticamente quegli esclusi da questa opportunità, che sono i dipendenti che percepiscono solo lo stipendio, sono proprietari di prima casa, per cui anche attenzione eventualmente a rivendicare una cosa di cui non abbiamo diritto, per la quale appunto non siamo stati, come dire, contemplati come contribuenti. Luciano De Vico. Certo, beh, allora nel caso del 730 questo è facile, perché basta essere in possesso del modello 730 e andare a guardare se il secondo acconto è dovuto o no, e questo lo si vede dal prospetto di liquidazione delle imposte che compare nelle ultime pagine del modello, che viene restituito dal CAF o dal professionista che ha trasmesso telematicamente il modello. In questo caso, lo ripetiamo, i soggetti, i contribuenti che hanno presentato il modello 730 non devono fare nulla. Il ricalcolo dell'acconto avverrà a cura dei sostituti d'imposta, coloro che trattengono o rimborsano le imposte dovute. Se è già stata erogata la retribuzione di novembre e quindi il secondo acconto è già stato trattenuto nella misura piena, sarà restituito a dicembre. Viceversa, gli altri sostituti d'imposta, quelli che non hanno ancora erogato la retribuzione, dovranno riconteggiare il secondo acconto e prelevarlo nella misura corretta nel mese di novembre, con la mensilità di novembre. Speriamo di... invece il discorso per chi ha presentato il modello unico. In questo caso occorre andare a ricalcolare il secondo acconto, come dicevamo prima, sulla base del rigo differenza e sottrarre quanto versato a titolo di primo acconto. Ma non tutti sono obbligati ovviamente a versare l'acconto. Tra questi, per esempio, ci sono coloro che hanno iniziato ad esempio un'attività nel 2009 e non hanno presentato la dichiarazione dei redditi l'anno scorso, ci sono coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ma che risultano non a debito, cioè quando il rigo differenza, quello a cui facevamo riferimento prima, non supera 51,65 euro, in questo caso non è dovuto affatto l'acconto. Tra gli altri soggetti che non sono tenuti a versare l'acconto ci sono gli eredi dei contribuenti deceduti dal 1 gennaio al 30 novembre del 2009. Perfetto, allora pochi minuti di tempo, io farei questa cosa, farei fare rapidamente le ultime due domande a due ascoltatori, scegliamo Giuseppe da Roma e Franco da Teramo, mi devono promettere di essere telegrafici e quindi lascio concludere poi con le risposte Tonino Morina. Giuseppe, rapidissimo, la ringrazio. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. La mia domanda è: il mio commercialista ritiene di farmi fare sempre l'acconto dell'88%. Io faccio unico, per cui non riesco a capire se sia del 99 o dell'88, perché lui dice che l'acconto dovuto al 30 novembre è dell'88%. Benissimo, allora adesso sentiamo i nostri ospiti e poi Franco da Teramo. Franco, rapidissimo, grazie. Buongiorno. Buongiorno, io vado nel senso contrario a quanto sta conducendo la trasmissione. Dunque, in questo senso, io già mi è stato trattenuto l'acconto di novembre, sì, perché il fondo del statale il 23 proprio oggi mi è stato debitato l'importo. Ora, a dicembre mi verrà rimborsato questo surplus che avrei pagato. Sì. Ma io invece vorrei lasciarlo così le e cose, infatti, perché non... a maggio a me non conviene pagare questo 20% in più. Guardi, io, dica. No, Franco, ha fatto benissimo a porre questo problema, perché è anche in questo caso una questione da sollevare e intorno alla quale prestare attenzione, perché non è detto che per tutti sia esattamente un'opportunità da cogliere, insomma, a braccio aperto. Allora, Tonino Morina, chiudiamo con questi due casi. Il primo, Giuseppe da Roma, il suo commercialista in termini di acconto gli dice che gli fa sempre versare l'88%, adesso stamattina sente parlare di questo 99 che diventa 79 in virtù delle nuove disposizioni, qual è la situazione di Giuseppe? No, se deve fare calcoli che li faccia giusti col 79%, quindi telegrafico è questo. Per quanto riguarda il nostro ascoltatore, naturalmente se non volesse avere restituito il surplus, il 20%, lo deve comunicare al sostituto, il proprio datore di lavoro, specificando che intende versare il 99% e non il 79%. Naturalmente ci saranno le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che arriveranno nei prossimi giorni, a breve, perché si aspetta anche il codice tributo per chi volesse compensarlo, ma l'orientamento del nostro ascoltatore è un orientamento saggio, ma naturalmente probabilmente anche diffuso, certo. Esatto, perché chi fa l'IRPEF è l'unico, la dichiarazione dei redditi, naturalmente che ha versato il 99% e non vuole avere il credito in compensazione può rimanere, perché pagare di più avrà sempre un credito futuro. Naturalmente rimane quello che abbiamo detto poco fa, per pagare, per morire c'è sempre tempo e speriamo in Dio. Grazie a Tonino Morina e a Luciano De Vico, sempre ottimi interlocutori per queste trasmissioni dedicate a tematiche che non è che ci siano proprio così facili da digerire, e però insomma con il fisco dobbiamo essere sempre a posto. Noi ci ritorneremo magari su questo argomento, vedremo se nei prossimi giorni matureranno ulteriori difficoltà per i contribuenti o se tutto filerà liscio. Noi intanto di Salvadanaio torniamo domani, buona giornata. Salvadanaio.